Io comincerei dal Mediterraneo e direi che tutte e tre le penisole che si danno sul Mediterraneo sono in mano alla destra, e questo è un fatto che non capitava da moltissimo tempo, che vuol dire che c'è qualche cosa che non sta funzionando nella parte meridionale dell'Unione Europea, diciamo così. Poi, per quanto riguarda l'Italia, diciamo che il Partito Democratico non ha strategia, non ha alleanze e quindi inevitabilmente è sconfitto, sia in sede locale, sia, temo, in sede europea, sia in sede nazionale. E questo è un problema, perché la destra che sta vincendo le elezioni è una destra di non grande valore, diciamo così. E tuttavia una destra che vince perché ha davanti a sé un avversario inconsistente. Forse era una semplificazione giornalistica, però insomma in Italia non si è registrato l'effetto Schlein dopo appunto la vittoria alle primarie per la segreteria del PD. Diciamo che le anime malvagie dicono che invece c'è stato l'effetto Schlein che ha fatto vincere la destra. Io non so se è vero, ma certamente un effetto Schlein in positivo non c'è stato. Probabilmente bisogna che il Partito Democratico faccia un esame, un'analisi politica, un'autocritica molto più radicale, molto più approfondita di quella che ha fatto finora. Deve trovare una strategia, una tattica, una fisionomia, un'identità, una platea di potenziali votanti, e deve smetterla di porsi come il partito moralmente superiore e demonizzare in questo modo quella che ormai è la maggioranza degli italiani. Il Partito Democratico deve cominciare a fare politica, smetterla di fare propaganda. Lei ha messo poco fa in relazione l'Italia con la Grecia e la Spagna. In questi contesti, come dire, il centro-sinistra, la socialdemocrazia non sa rappresentare un'alternativa? La socialdemocrazia è al governo in Spagna, è appena perduto rovinosamente le elezioni locali. Vuol dire che i cittadini non si riconoscono in uno stile di governo e in una linea di governo. È la destra che porta un'alternativa, o meglio, è la destra che fa credere ai cittadini di essere in grado di offrire un'alternativa. Probabilmente non è vero, ma intanto i cittadini votano a destra, poi si pentiranno e voteranno qualche altra cosa, ma intanto votano a destra. Ecco, ma secondo lei quali sono gli elementi principali che segnano il distacco appunto dell'elettorato con questi partiti di centrosinistra? Io non vorrei dire una banalità, ma insomma il Partito Democratico è davvero il partito delle TTTL, si interessa esclusivamente di un certo tipo di diritti civili, neanche di tutti, ma soltanto di alcuni tipi di diritti civili. Pensa che il problema che sta dentro la testa degli italiani, invece che essere un problema economico, di essere un problema di sostenibilità degli stipendi, invece che essere un problema del futuro dei figli, sia un problema di diritti delle minoranze. Ora, le minoranze hanno tutto il diritto di vedere rispettati i propri diritti, ma finché restano minoranze non sanno vincere le elezioni. Un partito normale si prende cura dei diritti delle minoranze e dei problemi della maggioranza al tempo stesso, cosa che il Partito Democratico non è capace di fare.